siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io non so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, mai niente lo sai, separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, e prego fermati ancora insieme a me.